Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ha cominciato a sparare la folla, abbiamo cercato di ripararci, ecco. Noi siamo caduti, ma sopra di noi sono caduti anche gli altri, e via, era tutto un susseguirsi, eh. L'enorme pressione della folla ha fatto cedere la prima vetrina, facendo cadere tutte le persone che si erano appoggiate, scaraventandole con il corpo all'interno del negozio. Storie di un corteo molto pericoloso e di una grande vittoria di civiltà in una puntata che si intitola Assembramenti. No, porca troia! Qualcuno forse ha riconosciuto questi suoni, più che altro, perché la voce è solo un grido e sono suoni di manifestazioni e di sirene di polizia. È l'attimo esatto in cui Carlo Giuliani viene scoperto cadavere nella piazza di Genova in cui viene ucciso, e racconta quel pezzo di storia lì, un pezzo di storia molto controverso, un po' perché è difficile non trovare pezzi di storia controversa in questo paese, perché sembra che qualsiasi cosa accada abbia almeno due modi per essere vista, qualsiasi cosa accada ha sempre due modi e due opinioni per essere letta. Tant'è, quello che è accaduto è che un giovane uomo è morto, è stato trovato, appunto, è rimasto cadavere su una piazza. Ci sono ancora mille dubbi e delle questioni irrisolte legate a quella storia. Noi qui raccontiamo episodi di vita, non facciamo altro. Abbiamo fatto sentire questo pezzo, che è un pezzo, ahimè, tristemente noto, che risale appunto agli episodi di Genova di quell'anno, perché si intitola Assembramenti, la puntata di oggi. Gli assembramenti abbiamo imparato a conoscerli, abbiamo imparato a raccontarli anche, abbiamo anche imparato a sbagliare a chiamarli, perché spesso gli assembramenti sono diventati assemblamenti, che è a metà tra un gruppo di persone che si mette insieme e qualcuno che cerca di assemblare invece degli oggetti, magari dei prodotti o delle catene di montaggio. Quindi, insomma, gli assembramenti sono diventati la parola, quantomeno è diventato un termine noto, è diventato noto anche come denunciarli, no? Per cui sui social in questi mesi c'è stata un po' la caccia d'untore, senza dubbio, ma la caccia al guardate quanta gente c'è qua. Io che vivo a Milano, insomma, l'ho vista sulla mia pelle come non si vedeva l'ora, ad esempio, che si scattasse una foto sui Navigli in cui le persone sembrassero tutte vicine per dire il milanese, guardalo qua, preso il milanese che va a fare l'aperitivo sui Navigli quando non dovrebbe andare. Anche di quello ovviamente si è discusso, perché la foto era con un teleobiettivo, schiacciava tutto, quelli che sembravano vicini in realtà erano distanziati di almeno un metro. Tant'è, questo a noi interessa meno. A Linee d'Ombra raccontiamo storie, solo storie, niente menate, quindi noi semplicemente vi raccontiamo degli episodi. Vi introducevo il termine assembramenti per questo motivo qua, perché vi raccontiamo almeno due storie oggi di persone che si trovano a manifestare. Sono due storie che arrivano da due momenti diversi della vita e della storia nostra. Uno arriva dal 1945, pochi giorni dopo, nell'aprile del 45, pochi giorni dopo il 25 di aprile, si svolge proprio a Milano, e l'altro invece parla anni dopo, attorno agli anni 70, al 71 esattamente, il 27 maggio del 71. Quindi praticamente parliamo di 50 anni fa, 49 anni fa, quasi esatti, un assembramento di donne cambiava la storia del movimento femminista, e quindi vi racconteremo queste due storie. Quello che però vi chiediamo da ormai una settimana a questa parte è che se oltre alla vostra storia di confine, la vostra storia di Linea d'Ombra, volete raccontarci anche una storia, un diario della ripartenza, noi siamo felici di riceverlo. Una storia che racconti, una pagina di diario che racconti come siete ripartiti dopo questo 18 maggio, se ha a che fare con il lavoro, se ha a che fare con gli affetti, se ha a che fare con il viaggiare, insomma, viaggiare ancora limitato, ma tant'è, se avete riaperto, se siete ripartiti, raccontatecelo. Una pagina di diario, Linee d'Ombra, @radio24.it, e noi siamo felici, come sempre, di raccontarla. Ora, mettetevi comodi, ci trasferiamo direttamente al 29 di aprile del 1945. Benvenuti a Linee d'Ombra. 29 aprile 1945. Una bella domenica di primavera è anche la prima domenica dopo la liberazione. E quindi molto entusiasmo, eccitazione, euforia, facile che si trasformi in una situazione pericolosa. A casa della nonna, attigua alla nostra, c'erano, sfollati da Milano, l'ultima sorella di papà con il marito medico. Tutti in casa eravamo attenti a sentire e a riportare le notizie che arrivavano per radio o per passaparola. Si era saputo che Mussolini e i gerarchi erano stati portati a Piazzale Loreto, al che lo zio medico proponeva di andare a vedere che cosa c'era di vero. Il papà era assolutamente contrario, preoccupato di restare coinvolti in pericolose situazioni o facili tafferugli, nostro malgrado. Ma lo zio e anche mio fratello tanto fecero che alla fine la spuntarono. E così, in quattro, me compreso, che avevo 16 anni, saltammo in bici e partimmo. Per arrivare in centro a Milano c'erano 12 chilometri, una passeggiata per noi abituati ad usare la bicicletta come solo e unico mezzo di trasporto. Ma molto prima di arrivare a Piazzale Loreto era impossibile continuare in bici per via della marea di folla sempre più numerosa. E quindi rinunciammo e decidemmo di fare ritorno passando per Piazza Duomo. Dappertutto strade piene di gente, auto, camion pieni di partigiani, di civili, qualche carro armato americano e un gran cantare con sventolii di bandiere di ogni colore. Partigiani nelle più svariate divise, calzoni corti, borghesi tutti con fazzoletti al collo, per lo più rossi, azzurri, tutti armati di mitra, pistole e anche fucili da caccia, perfino allungati sui parafanghi delle povere auto stracariche o dei camion a muso lungo. L'idea era di arrivare in Piazzale Loreto, poi a un certo punto abbiamo trovato talmente tanta confusione che con le biciclette non si poteva andare, scendere dalla bicicletta peggio che andare di notte perché in mezzo alla gente con la bicicletta a mano, e quindi abbiamo cambiato programma, abbiamo preso, penso, Corso Venezia e siamo andati in Piazza del Duomo. A questo punto eravamo lì tutti contenti perché c'era la sfilata dei partigiani, di questo, di quello, tutti allegri, tutti entusiasti, un po' anche troppo euforici, diciamo, no? Finché si è sentito un colpo di fucile e buonanotte al secchio. Seguendo il flusso da Piazza Fontana, sbuchiamo in una strapiena Piazza Duomo, arriviamo all'incrocio con Via Mercanti direzione Cordusio. All'improvviso sentiamo uno sparo. Si scatena un inferno. Tutti gli armati a terra al riparo dai mezzi a fare fuoco in tutte le direzioni, sperando di snidare, pare, il cecchino invisibile. In un battibaleno la piazza si svuota. Tutti a cercare riparo sotto i portici e noi quattro giù dalle bici per appoggiarli a dei pilastri, ma subito siamo intrappolati e risucchiati dalla folla. Si è formata una marea umana. Siamo tutti pigiati come sardine, impossibilitati a muoverci per uscire dal flusso che lentamente ma inesorabilmente ci spinge verso la galleria. Perché non si riuscisse a stare fermi era impossibile capirlo. Si vedevano le persone molto più avanti ondeggiare e piegarsi verso sinistra sul lato dei negozi, ma quei negozi erano tutti completamente chiusi, con le serrande abbassate, era tutto chiuso tranne tre vetrine dove funzionava un centro del CLN. What you fighting for? It ain't nothing you ain't had before. It ain't nothing you ain't felt before. And still you try. Is there nothing new? Is there nothing to inspire you? So you found that all your dreams came true. Still you cry. Time is running now. Can you get back what you lost somehow? Can you round up all those memories and tell them to breathe? There's a future coming up behind, and I can feel it, but I don't know where it's coming from. And I can hold it, but I can't. cannot see its face. And time is out of my hand. Ad un certo punto l'enorme pressione della folla fa cedere la prima vetrina, facendo cadere le persone che si sono appoggiate, scaraventandole con il corpo all'interno, ma con le gambe rimaste fuori, bloccate dallo zoccolino e quindi impossibilitate a muoversi, mentre la marea cade loro addosso, senza possibilità di resistenza. Le persone cadevano e si divincolavano cercando una via di salvezza calpestando quei poveri corpi caduti prima di loro. Urla, pianti, invocazioni, una scena da girone dantesco. Anche per noi arrivò il momento della caduta. Eravamo rimasti in tre perché uno zio aveva avuto il buon senso di non entrare sotto i portici. Per fortuna gli zii erano giovani ed io a 16 anni non ero ancora un uomo, ma cresciuto in campagna, abituato a correre, saltare, arrampicare sugli alberi, ero già agile e abbastanza forte. Anche a noi è toccato passare su quei poveri corpi incastrati, impossibilitati a proteggersi, calpestati orribilmente, ma non c'era altra possibilità per metterci in salvo. È stato un trauma che non ho mai cancellato. Alla fine, strisciando, dimenandoci, siamo riusciti a salvarci con abiti stracciati e sporchi di sangue. Non ricordo se siamo rimasti scalzi. I momenti erano un po', vorrei dire, addirittura terrificanti, perché come la corata della lava, e noi dovevamo seguire, tutti dovevano seguire l'onda e vedere quei visi lì terrificati. Una cosa indescrivibile, non poterli aiutare. Io avevo 16 anni, però ero già abbastanza forte, quindi avrei dovuto aiutare, ma era impossibile. Delle biciclette neanche più l'ombra. L'altro zio, che ci aveva aspettato un bel po', non immaginando dove fossimo finiti, aveva preso la strada di casa, chissà con che animo, e arrivando solo, lasciando immaginare che ansia si era creata in famiglia. Noi intanto ci stavamo facendo i 12 chilometri a piedi, con la meraviglia di tutti quelli che incontravamo, visti come eravamo conciati. Nessuno, né giornali né radio, hanno poi dato notizia di questa tragedia a due passi dal Duomo. Di certo più di qualcuno ci ha rimesso la vita, ma con la baraonda di quei giorni sembrava non fosse importante. Let me inside, not to wait. Let all that run through the fields, through the quiet, go on with their own hidden ways. Sounds of all the blues. Non è una di quelle storie che scivolano via, la storia di Marcello. È una storia che ti rimane addosso, rimane addosso sicuramente a lui, come dice nella sua storia, ed è una storia che rimane addosso a tutti noi perché rappresenta un pezzo della storia di questo paese. E abbiamo la fortuna che ogni tanto qualcuno, nonostante abbia moltissimi anni, come nel caso di Marcello, abbia la memoria, la voglia di scriverla, la voglia di mandarcela e soprattutto la voglia di parlare con noi. Pronto? Ciao Marcello, buongiorno. Ciao, buongiorno. So che tu hai un'età abbastanza, diciamo, venerabile, hai 91 anni. Venerabile non direi, un pochino ce l'ho. E come stai? Come hai vissuto, questo periodo, Marcello? Come hai vissuto questi due mesi? L'ho vissuto, male, nel senso che fa male vedere, trovarsi alla fine della vita, diciamo, perché ormai è dover tribulare così, però insomma, fortunatamente mi hanno lasciato un po' di giardino, c'è un po' di piante, okay, quindi riesci... allora ho dovuto curare una bambinetta della mia golf. Mi diverto, ciao. Perché tu hai una persona che si occupa di te e vive con la sua bambina. Sì, solo, e allora c'ho una signora, la quale è una bambina, certo, di 3 anni e mezzo, 4, praticamente, okay, la tirata grande, la stiamo tirando a grande insieme. Ecco. Ah, bravissimo, mi sembra un buon proposito per il futuro, far crescere il meglio possibile un essere umano. Senti Marcello, mi racconti quanti anni avevi quell'aprile del 45? Eri un adolescente. 16 anni. E quindi te lo ricordi benissimo tu quel giorno. Eh beh sì, purtroppo sì. Senti, mi racconti che clima c'era in città, a Milano, in quei giorni, cioè subito dopo il 25 aprile. Che tipo di aria si respirava in città? Era una bara onda perché... Il giorno prima eravamo tutti fascisti, il giorno dopo tutti o principalmente comunisti, no? Mm-hmm, certo. Era brutto andare in giro, era brutto anche stare a casa perché giravano e perché uno c'aveva una cosa o perché c'aveva un po' di terra, perché andavano magari a prendere e sparavano e beh, finita. Diciamo, più che aria di festa c'era aria di paura, insomma, era un clima pericoloso in città. Beh, diciamo, aria di festa a Milano, nel senso che appunto arrivavano tutti questi partigiani dalle vallate, da qui, da là, e si sono ritrovati un po' tutti, no? Però non c'era da stare attenti. Certo. Beh, e l'episodio che ci racconti lo testimonia abbastanza bene, perché di fatto bastano dei colpi? Cosa sono? Dei colpi di pistola o di fucile, giusto? Che vengono sparati e la un gente si assembra. Un colpo si è sentito. Uno. Uno è stato... La piazza si è svuotata dalle persone normali come noi, no? Sì, sì. Mentre tutti gli altri, diciamo, chiamiamoli partigiani o quello che vuoi, sono saltati giù dai camion, dalle macchine, tutti in terra, chi spara in alto, chi spara in basso, chi a destra, a sinistra, una roba, i fuochi d'artificio. Senti, come siete stati accolti quando siete tornati a casa, quando siete arrivati a piedi e conciati in quel modo? Eh beh, insomma, a casa papà e tutti, papà, la mamma, gli altri, la nonna, erano molto preoccupati, perché lo zio è tornato a casa da solo perché non ci ha visto più, è stato lì un po'. Ah giusto, e voi siete arrivati dopo. Noi siamo arrivati dopo. Dove abitavate esattamente? A Bollate. Tu raccontami un po', nella tua vita cosa hai fatto? Quante cose hai fatto, Marcello? Ne ho fatte diverse. Perché sono nato e speravo di morire agricoltore. Ma oramai alla mia età non posso più far niente. Poi ci hanno espropriato la regione, ci ha portato via tutta l'azienda, ma fortunatamente avevamo il giardino, la casa col giardino è rimasta nostra, perché facevamo, certo, facevamo verdura, no? Adesso, sì. Però a un certo punto facevamo verdura e la nostra era... Adesso non voglio, come si dice a Milano, fare il bauscia. No, eravamo se non i primi, i secondi o forse prima dei primi, ecco. Eravate benestanti, insomma, in qualche modo. Sì, stavamo molto bene. Senti, Marcello, prima di salutarti vorrei chiederti un'ultima cosa riguardo al racconto che ci hai mandato. Perché tu dici, quello è stato un trauma che io non ho mai superato. Che cosa intendi? Come mai dici così? Cioè, se ci penso, vedo ancora i visi di quelle povere persone sotto e ho, come posso dire, ho il rimorso di non essere riuscito a fare niente per salvarne almeno qualcuno, ma era impossibile perché sì, da come lo racconti, piegato da una parte senza poter fare la forza sulle gambe non potevi fare niente. Marcello, io ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai mandato, per la chiacchiera, e sappi che, visto che hai questi tuoi 91 anni, sembrano in realtà quasi 40-42, noi ti auguriamo ancora tantissimi anni davanti. Quando vuoi mandarci una storia? Guarda, ho smesso l'anno scorso di lavorare. Perfetto. Però allora, visto sono pentito. Però visto che hai tempo a disposizione, mandaci altre storie, che a noi fa molto piacere. Va bene. Grazie mille, Marcello. D'accordo. Bocca al lupo per tutto. Grazie. Sentito l'assembramenti questa puntata un pochettino, perché questo è un termine che stiamo usando tantissimo, ahimè, negli ultimi mesi a questa parte, ma perché davvero la storia che ci ha raccontato Marcello racconta di un assembramento, racconta di una Milano, di un periodo che leggiamo, che sentiamo raccontare, ma che poi, come sempre accade quando vengono raccontate delle storie intime e personali, prendono un peso, prendono una dimensione e un volume molto molto maggiore, e di assembramento questo evidentemente si è trattato. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio, il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24%. E per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Era il 27 maggio del 1971. Quello è stato il giorno in cui abbiamo deciso di sfidare la legge. Avevamo la storia dalla nostra parte e avevamo anche chi avrebbe raccontato per noi quel giorno straordinario. Non potevamo più tirarci indietro. Queste sono le parole di Neil McCafferty, una giornalista e drammaturga irlandese che quel giorno del 1971, insieme a un gruppo di ragazze, è partita dalla stazione di Dublino in direzione Belfast per acquistare qualsiasi tipo di anticontraccettivo in commercio. L'impresa di quel giorno ha assunto un valore simbolico che ha segnato il futuro di tutta la Repubblica d'Irlanda. In una puntata che si intitola Assembramenti, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Nel 1971 in Irlanda era bandita ogni forma di contraccezione. L'Irlanda era allora una repubblica con una cultura di base molto conservatrice, di forte stampo cattolico. La detenzione, il trasporto o la diffusione di sistemi anticoncezionali era illegale e passibile di denuncia. La pillola veniva somministrata soltanto dietro prescrizione medica per regolarizzare il ciclo mestruale. Di conseguenza era normale, per la maggior parte delle donne, avere almeno 5-6 figli. Se capitava di avere un figlio fuori dal matrimonio, per le donne era previsto il carcere e per i figli l'orfanotrofio in attesa di essere, nel migliore dei casi, adottati. Le case Magdalen, che raccoglievano le ragazze ritenute immorali dalle loro stesse famiglie per via della loro condotta considerata peccaminosa o in contrasto con i pregiudizi della società ben pensante, erano molto diffuse. Sotto il velo moralista, in questi istituti, la coercizione era la norma. Essere troppo avvenente, essere rimasta vittima di uno stupro, erano alcune tra le cause più frequenti per chi si decideva di affidare le donne alle case Magdalen. Una volta accolte, le ragazze erano impegnate quotidianamente in estenuanti lavori come lavare il bucato a mano, il duro lavoro, le privazioni e la preghiera erano la condotta che bisognava tenere e che costituiva il cammino verso la redenzione dei peccati del passato. Tutto questo però era limitato alla Repubblica d'Irlanda. L'Irlanda del Nord invece apparteneva ad una cultura diversa. L'Irlanda del Nord faceva parte del Regno Unito, era di religione e cultura protestante e soprattutto gli anticoncezionali erano legali e disponibili. Nell McCafferty è una giovane giornalista e drammaturga di Derry, Irlanda del Nord. Nell ha studiato arte a Belfast, ma si è trasferita a Dublino per lavorare come giornalista presso l'Irish Times. Si scontra subito con una cultura molto diversa, ma da giovane volitiva non piega la testa. Nel 1970 scrive un pezzo che parla di donne. È davvero difficile, dice, cercare di spiegare l'emancipazione femminile. Quando si parla di donne, il discorso finisce sempre per andare a parare sull'aspetto fisico e sul make-up. Ma per gli uomini non vale la stessa cosa. Quando si parla di uomini, nessuno si sogna di parlare dell'aspetto fisico. Questo ce lo insegna un sistema che non va bene, un sistema che vuole dividerci, continua. D'ora in poi il nostro motto sarà «Rompiamo il sistema e uniamo la gente». E il suo articolo decreta la nascita del movimento femminista irlandese. Il movimento ha presa, ma le iniziative non sono sufficienti. Nell vuole fare qualcosa di molto evidente, qualcosa che richiami l'attenzione di tutto il mondo verso il movimento irlandese. Da autrice di teatro, analizza gli elementi a disposizione per rendere la sua storia il più avvincente possibile. Gli elementi sono le donne, il sesso, la Chiesa Cattolica, la legge e la lotta politica. Con questi elementi a disposizione immagina un piano tanto semplice quanto efficace. L'idea è quella di prendere un treno per andare a Belfast ad acquistare contraccettivi e avvisare i media internazionali che riportino il più possibile questo evento. Quando espone il suo progetto alle altre attiviste, molte si tirano indietro per non andare contro a mariti e genitori, molte per vergogna, ma accettano di partecipare alla fine in 40. 40 donne. Così, quel sabato 25 maggio, partono di mattina dalla stazione di Dublino, seguite da una truppa americana, una giapponese e un irlandese. 150 chilometri dopo, le 40 donne arrivano a Belfast e si sparpagliano in gruppetti in cerca di farmacie. La maggior parte di loro sono ragazze di campagna, non sanno nemmeno bene come siano fatti gli anticoncezionali, ma non si lasciano intimorire. Comprano di tutto. Comprano pillole e gel spermicidi, spirali, preservativi, ne comprano centinaia di scatole e comprano anche moltissime aspirine per confondere la dogana al ritorno. Dopo aver fatto la spesa, il gruppo si prepara a tornare a casa, ma il viaggio di ritorno si fa più complicato. All'euforia della partenza subentra la preoccupazione per il ritorno, per quello che le aspetta a Dublino. Nell si sforza di rassicurarle, ma la paura dei familiari, la vergogna, la paura di un arresto anche, è tanta.

Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Vi stiamo chiedendo i diari della ripartenza. lineedombra@radio24.it. Ogni giorno ne raccontiamo uno, insomma l'avrete capito. Dopo i diari della quarantena vogliamo raccontare come siete tornati a fare quello che fate, anche se si tratta solo di fare una passeggiata per strada. È proprio il caso della prossima storia, che è la storia di Gaspare. Gaspare è un affezionato di Linee d'Ombra, è quasi un amico ormai, considerato tutte le storie che ci ha mandato, e siamo felici di raccontare tutte le volte che ce le manda. E vi dicevo, è una semplice passeggiata in giro per Palermo, in giro per le strade di Palermo, eppure ha tutto il sapore di una ripartenza. Ogni volta che stringo la mano di mio figlio, sento anche quella di mio padre. Sento la sua mano sopra la mia, con le sue dita gonfie e la sua pelle ruvida. In questi giorni di ripartenza siamo tornati a passeggiare per le strade di Palermo, io e lui. «Sei il mio papà preferito», mi dice. Poi mi afferra la mano e me la stringe. Ci eravamo chiusi in casa che era inverno, e adesso che rimettiamo il naso fuori sembra che l'estate sia arrivata da un pezzo. Calpestare il marciapiede, sbirciare i colori dei gelati dentro il bancone di un bar, sentire il profumo della pizza appena sfornata, sono cose che oggi allineano il mio e il suo livello di entusiasmo, nonostante la differenza di età. E nonostante le mascherine che coprono quasi tutti i volti, fatta eccezione per qualche naso ribelle. Sullo slargo, davanti al Teatro Politeama, ragazzi di tutte le età sfrecciano da una parte all'altra sopra le rotelle di pattini e skateboard. «Guarda!» dico, come se fosse possibile non notare quello schiamazzo di felicità e voglia di vivere. Le nostre teste, però, sono rivolte in due diverse direzioni, perché lui sta fissando una colomba che saltella a pochi metri da noi. Immagino subito cosa gli stia passando per la testa, e infatti strappa la sua mano dalla mia e corre battendo forte le mani. La colomba finge di spiccare il volo e poi atterra immediatamente, e allora lui continua. «Papà, ti ricordi di nonno?» mi dice. «Certo che mi ricordo. Perché mi ha insegnato a battere le mani per far volare le colombe?» «Beh, perché sapeva che ti faceva ridere», gli dico. «Ma fino a che età, papà, si possono battere le mani alle colombe?» «Moreno», dico come se stessi prendendo la rincorsa, «vedi, tu hai 10 anni». E sto per dire, hai 10 anni, sei grande ormai, d'ora in avanti non potrei più farlo. Sto per dirlo, ma non ce la faccio, perché so che non è la risposta giusta. «Papà», dice lui impaziente, «ma tu fino a che età hai battuto le mani alle colombe?» «Fino a 8 anni, mi sembra», gli dico io. «Ma allora io non lo posso più fare?» Decido di dirgli come stanno le cose, senza girarci troppo intorno. «Allora, Moreno», dico con voce seria, «battere le mani alle colombe, farle volare via, piace a tutti, anche ai grandi. Solo che arrivata a una certa età ci vergogniamo di quello che possono pensare gli altri e non lo faccio...» mi dice. «Lo faccio ancora fino a quando ho 10 anni. Va bene, papà?» «Va bene», dico sorridendo. Penso che come prima uscita dopo la quarantena sia già abbastanza, quindi gli propongo di tornare a casa. «Papà», dice con voce preoccupata poco prima di raggiungere l'auto, «ma tu, fino a che età camminavi con la mano con tuo padre?» «Camminare con la mano con mio padre?» dico disinvolto, e stavolta sono preparato. «Quello, per tutta la vita». «Darling, the door is open to my heart and I've been hoping that you won't be the one to struggle with the key. We got lots of time to get together if we try. The waiting time is over. No man sees around the corner. Walking in the rain and coming home dry. There's something missing there. It's easier to care and try. And I try to wash my hands. And I try to make amends. And I try to count my friends. Take a chance, but

e quindi ringrazio questo giovane uomo che ha deciso di raccontarcelo. Ringrazio Mauro Pescio per come le racconta ogni volta, e poi grazie ancora ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Mandateci le vostre storie, mandateci le vostre storie di confine, le vostre storie di linea d'ombra, oppure i vostri diari della ripartenza, come siete ripartiti dopo il 18 di maggio, che cosa è accaduto nella vostra vita e come la state vivendo. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!